Che mercoledì, ragazzi! Oggi sarà una giornata piena di consegne. Ma niente panico! Con Lookout ho noleggiato il furgone giusto per muovermi in maniera agile nel traffico. Sono andato a Napoli, in via Diocleziano 80, e ho scelto modello e capienza. Basta la patente B. Con Lookout, noleggio alla velocità della luce. Scopri di più su lookoutrent.com. La locanda della tormenta presenta Conan, la fenice sulla lama. Buon ascolto. Un'oscurità spettrale e il silenzio che precede l'alba avvolgevano le guglie ombreggiate e le scintillanti torri della città. Da una porta, che una mano bruna aveva silenziosamente aperto, quattro figure mascherate uscirono in fretta nel vicolo fiocamente illuminato, uno fra i tanti di quel vero e proprio labirinto di stradine tortuose. Senza dire una parola, avanzarono furtive nel fioco chiarore, strettamente avvolte nei mantelli. Silenziose, come spiriti di uomini assassinati, svanirono nell'oscurità. Alle loro spalle un volto dall'espressione sardonica rimase incorniciato nella porta socchiusa e due occhi malevoli scintillarono malignamente. «Andate nella notte, creature della notte! Pazzi! Un fato sinistro vi è alle calcagna come un cane cieco e voi non lo sapete!» Colui che aveva parlato chiuse la porta e la sprangò. Poi si girò e si avviò per il corridoio reggendo una candela. Era un individuo gigantesco e cupo, la cui pelle scura rivelava sangue stigiano. Giunse a una stanza interna, dove un uomo alto e snello, che indossava vesti di velluto consunto, se ne stava disteso come un gattone pigro su un divano coperto di seta e beveva vino da una grande coppa d'oro. «Bene, Ascalante, quegli sciocchi dei tuoi uomini sono sgattaiolati nella strada come topi dalla loro tana. Usi degli strumenti ben strani.» «Strumenti? Sono loro che mi reputano uno strumento. Sono mesi ormai che quei quattro ribelli mi hanno richiamato dal deserto meridionale e da allora vivo proprio in mezzo ai miei nemici, nascondendomi di giorno in questa casa lugubre e scivolando furtivo attraverso vicoli scuri e corridoi bui durante la notte. E sono riuscito là dove quei nobili ribelli hanno fallito, servendomi di essi e di altri agenti, molti dei quali non mi hanno mai visto in viso. Ho disseminato l'impero di sedizione e malcontento. In breve, io, lavorando nell'ombra, ho preparato la caduta del re che siede sul trono alla luce del sole. Per Mitra, ero un uomo politico prima di diventare un fuorilegge.» «E quegli stupidi che si credono tuoi padroni?» «Continueranno a crederlo finché il nostro lavoro non sarà finito. Chi sono loro per misurarsi con l'intelligenza di Ascalante? Volmana, il deforme conte di Caraban, Gromel, il gigantesco comandante della Legione Nera, Dion, il grasso barone di Attalus, e Rinaldo, il menestrello col cervello di gallina. Io sono la forza che ha saldato l'acciaio che c'è in loro e con l'argilla che c'è in loro li schiaccerò quando sarà l'ora. Ma questo è ancora nel grembo del futuro. Stanotte il re morirà.» «Alcuni giorni fa ho visto gli squadroni imperiali allontanarsi dalla città.» «Cavalcavano verso la frontiera per fermare le scorrerie dei Pitti, scatenati dal liquore che ho contrabbandato oltre confine. La grande ricchezza di Dion ha reso questo possibile e Volmana mi ha aiutato a disfarmi delle truppe imperiali rimaste nella città. Grazie ai suoi parenti fra la nobiltà della Nemedia è stato facile convincere il re Numa a invitare il conte Trocero di Poitain, Siniscalco di Aquilonia. E naturalmente, per rendergli i dovuti onori, sarà accompagnato da una scorta imperiale, oltre alle sue truppe personali e a Prospero, che è il braccio destro di Conan.» È rimasta solo la guardia del corpo del re in città, oltre alla legione nera. Tramite Grommel sono riuscito a corrompere un ufficiale avido d'oro che, a mezzanotte, farà allontanare gli uomini di guardia alla porta del re. A quell'ora, accompagnato da 16 disperati al mio servizio, entrerò nel palazzo attraverso un passaggio segreto. Quando l'opera sarà compiuta, anche se il popolo non ci acclamerà, la legione nera di Grommel sarà sufficiente a prendere possesso della città e della corona. E Dion pensa che la corona sarà data a lui? Sì! Quel pazzo di un grassone la reclama per qualche goccia di sangue reale che ha nelle vene. Conan ha commesso un grave errore a lasciare in vita uomini che vantano una parentela con la vecchia dinastia alla quale ha strappato la corona di Aquilonia. Volmana desidera essere reintegrato nel favore reale come all'epoca della passata dinastia, in modo da riportare i suoi possedimenti alla grandezza di un tempo. Grommel odia Pallantide, comandante dei Dragoni Neri, e desidera ottenere il comando dell'intero esercito con la cocciutaggine di tutti i bassoniani. Solo Rinaldo, di tutti noi, non ha delle ambizioni personali. Vede in Conan un rozzo barbaro dalle mani grondanti sangue sbucato dal nord per depredare una terra civile. Idealizza il re Conan, che ha ucciso per ottenere la corona, ricordandosi solo che di tanto in tanto proteggeva le arti e dimenticando però le atrocità del suo regno e facendole dimenticare anche al popolo. La gente canta già apertamente il lamento del re, in cui Rinaldo tesse le lodi di quel gaglioffo santificato e denuncia il nuovo re Conan come quel selvaggio dal cuore tenebroso venuto dagli abissi. Conan ride, ma il popolo ringhia. E perché Rinaldo odia Conan? I poeti odiano sempre chi detiene il potere. Per loro la perfezione sta sempre dietro l'ultimo angolo o quello dopo ancora. Evadono dal presente sognando il passato ed il futuro. Rinaldo è una torcia accesa di idealismo, sollevata, crede lui, ad abbattere un tiranno e a liberare il popolo. Ma per quanto riguarda me, sino a qualche mese fa, non avevo altra ambizione che di depredare carovane fino alla fine dei miei giorni. Ma ora i miei vecchi sogni si risvegliano. Il nuovo re Conan morirà! Dion salirà sul trono! E poi anche lui morirà! Ad uno, tutti i miei oppositori scompariranno, con il fuoco, con il ferro o con uno di quei vini mortali che tu sai preparare così bene. Ascalante, re di Aquilonia! Ti piace come suona? L'ostigiano alzò le ampie spalle. Un tempo anche io avevo le mie ambizioni, Ascalante, al cui confronto le vostre appaiono misere e infantili. In che stato mi sono ridotto? I miei pari di un tempo e i miei rivali rimarrebbero davvero stupiti se potessero vedere Totamon dell'Anello servire come schiavo, uno straniero, fuori legge per giunta, e aiutare le basse ambizioni di baroni e di re. Tu riponi la tua fiducia in magie e stregonerie. Io confido invece nella mia intelligenza e nella mia spada. Intelligenza e spada sono pagliuzze di fronte alla saggezza delle tenebre. Se non avessi perso il mio anello, le nostre posizioni potrebbero essere invertite. Tuttavia, Totamon, sei tu che porti i segni della mia frusta sulla schiena, ed è probabile che continuerai a portarli, se non ad averne anche di nuovi. Non essere tanto sicuro. Un giorno o l'altro ritroverò l'anello, e allora, per le zanne di Set, pagherai! Incollerito, l'aquiloniano balzò in piedi e lo colpì con forza sulla bocca. Tot barcollò all'indietro mentre il sangue gli sgorgava dalle labbra. «Ti sei fatto audace, cane!» Stai attento, sono ancora io il tuo padrone e conosco il tuo tenebroso segreto. Va sui tetti delle case a urlare che Ascalante è in città e che complotta contro il re, se ne hai coraggio. Non ce l'ho, mormorò l'ostigiano, asciugandosi il sangue dalle labbra. No, certo che non ce l'hai. Se muoio perché tu mi hai tradito, un eremita del deserto meridionale ne sarà informato e romperà il sigillo del manoscritto che gli ho affidato. E dopo averlo letto, una parola sarà mormorata in Stigia e un vento si alzerà dal meridione. E allora, dove nasconderai la testa, Totamon? Lo schiavo rabbrividì e il suo volto divenne color cenere. Ma basta. Adesso, Totamon, ho del lavoro per te. Io non mi fido di Dion. L'ho persuaso a recarsi nella sua dimora di campagna e a rimanervi finché il lavoro di stanotte sarà compiuto. Quel grassone non riuscirebbe mai a nascondere al re il suo nervosismo. Seguilo, e se non lo raggiungi per strada, prosegui fino alla sua villa e resta con lui finché non lo manderemo a chiamare. Ma non perderlo di vista. È terrorizzato e potrebbe piantarci in asso e magari correre da Conan e spifferargli l'intero complotto, sperando poi di salvarsi la pelle. E ora va! Lo schiavo si inchinò, nascondendo l'odio dei suoi occhi, e fece come gli era stato ordinato. Ascalante tornò al suo vino. Sopra le guglie tempestate di pietre preziose stava sorgendo un'alba rossa come il sangue. Che mercoledì, ragazzi! Oggi sarà una giornata piena di consegne. Ma niente panico! Con Lookout ho noleggiato il furgone giusto per muovermi in maniera agile nel traffico. Sono andato a Napoli, in via Diocleziano 80, e ho scelto modello e capienza. Basta la patente B! Con Lookout, noleggio alla velocità della luce. Scopri di più su lookoutrent.com. Due. Quando ero uomo d'arme suonavano i timballi. Il popolo dorava la strada ai miei cavalli. Ora che sono re, è irto il mio cammino di perfidi pugnali e veleno nel mio vino. La strada dei re. La stanza era grande e sfarzosa, con sontuosi arazzi sulle pareti di legno lucido, folti tappeti sul pavimento d'avorio, intarsi elaborati e volute d'argento sull'alto soffitto. Dietro un tavolino d'avorio intarsiato d'oro sedeva un uomo le cui spalle massicce e la pelle bruciata dal sole parevano fuori posto in quell'ambiente lussuoso. Sembrava piuttosto appartenere al sole, ai venti e alle montagne di terre lontane. I suoi più piccoli movimenti lasciavano indovinare muscoli d'acciaio guidati da un cervello acuto con la coordinazione di un uomo nato per la lotta. Non c'era niente di misurato o ponderato nei suoi movimenti. O era perfettamente immobile, simile ad una statua di bronzo, o era in movimento, non con la rapidità scattante dell'uomo in tensione, ma con la velocità felina che confonde la vista a chi cerca di seguirla. I suoi abiti erano di stoffa costosa, ma di semplice fattura. Non portava anelli né ornamenti e la sua chioma nera dal taglio squadrato era trattenuta da una semplice fascia intessuta d'argento. Posò lo stilo d'oro con cui aveva laboriosamente vergato alcune tavolette di cera, appoggiò il mento sul pugno e guardò l'uomo che stava davanti a lui con un lampo di invidia negli occhi azzurri. L'uomo, in quel momento, era occupato a legare i lacci della sua armatura sbalzata e fischiettava distratto. Un modo di fare ben poco convenzionale, visto che si trovava alla presenza di un re. Prospero! Queste faccende di governo mi stancano più di quanto non abbiano mai fatto tutte le battaglie che ho sostenuto. Fa parte del gioco, Conan! Tu sei re, quindi devi recitare la tua parte. Vorrei venire con te a Nemedia. Mi sembrano secoli che non salgo in groppa ad un cavallo, ma Publio dice che è necessaria la mia presenza qui. E maledizione anche a lui! Rovesciare la vecchia dinastia. È stato abbastanza facile, anche se mi pareva durissimo all'inizio. Guardando indietro al sanguinoso cammino che ho percorso, quei giorni di fatica, intrighi, carneficine e sofferenze, mi sembrano come un sogno. Ma non sognavo d'arrivare fin qui, Prospero. Quando Re Numedide morì ai miei piedi e io gli strappai la corona dalla testa insanguinata per posarla sulla mia, avevo raggiunto l'estremo limite dei miei sogni. Mi ero preparato a prendere la corona, non a tenerla. In quei giorni lontani, quando ero libero, tutto ciò che desideravo era una spada affilata e una strada che mi portasse dritto ai miei nemici. Ora tutte le strade sono tortuose e la mia spada non serve più. Quando rovesciai Numedide, la gente mi considerava il liberatore e ora sputa sulla mia ombra. Hanno messo una statua in onore di quel porco nel tempio di Mitra e il popolo si lamenta davanti ad essa, adorandola come se fosse la sacra effigie di un santo monarca ucciso da un barbaro sanguinario. Quando portai il loro esercito alla vittoria come mercenario, Aquilonia passò sopra il fatto che fossi un forestiero, ma adesso non riesce a perdonarmelo. La gente brucia incenso alla memoria di Numedide nel tempio di Mitra e sono gli stessi che i suoi carnefici mutilarono e accecarono, i padri di coloro che morirono nelle segrete, le cui mogli e le cui figlie furono trascinate nel serraglio e stuprate. Pazzi volubili! Rinaldo è largamente responsabile, Conan. Canta ballate e accendono gli animi. Mandalo a comporre rime per gli avvoltoi e vedrai cosa succede. Oh, Prospero, lui è al di fuori della mia portata. Un grande poeta è più grande di qualsiasi re. Le sue canzoni sono più potenti del mio scettro, perché mi ha quasi strappato il cuore dal petto quando ha cantato per me. Io morirò un giorno e verrò dimenticato, ma le ballate di Rinaldo vivranno per sempre. No, Prospero, qualcosa di nascosto, di sotterraneo, di cui non ci accorgiamo. Lo sento, come nella mia giovinezza sentivo la tigre nascosta nell'erba alta. Nel regno serpeggia un'inquietudine indefinibile. Io sono come il cacciatore accovacciato accanto al suo piccolo fuoco, in mezzo alla foresta, che ode passi furtivi nel buio e quasi riesce a vedere lo scintillio di occhi ardenti. Se solo riuscissi ad afferrare qualcosa di tangibile che posso tagliare con la mia spada! Sono convinto che non è per caso che i Pitti hanno assalito con tanta ferocia la frontiera, tanto che i bossoniani hanno dovuto chiederci aiuti per respingerli. Avrei dovuto andare anch'io con quei soldati! Publio sospettava un complotto per intrappolarti e ucciderti oltre la frontiera. Per questo ti ha consigliato di restare in città, Conan. I dubbi che hai nascono dai tuoi istinti di barbaro. Lascia che il popolo ringhi. Le truppe mercenarie sono dalla nostra e anche i dragoni neri e tutte le lame di Poitain hanno giurato di stare al tuo fianco. L'unico pericolo che corri è di essere assassinato e ciò è impossibile con gli uomini delle truppe imperiali che montano la guardia notte e giorno. Ma dimmi, che cosa stavi facendo? Una mappa. Le mappe di corte riportano abbastanza bene le regioni meridionali, orientali e occidentali, ma quelle settentrionali sono vaghe e piene di errori. Sto aggiungendo le terre del settentrione. Vedi? Questa è la mia Cimmeria, dove sono nato. E queste sono... Asgard e Vanaheim, sì. Per Mitra pensavo quasi che fossero solo terre di favola. Conan fece una smorfia feroce, toccando involontariamente le cicatrici che gli segnavano il volto bruno. Avresti pensato diversamente se avessi passato la giovinezza sulle frontiere settentrionali della Cimmeria. Asgard si trova a settentrione e Vanaheim a nord-ovest della Cimmeria, e lungo i confini si combatte continuamente. Che tipo di gente sono gli uomini del settentrione, Conan? Ah, sono alti, biondi e con gli occhi azzurri. Il loro dio è Ymir, il gigante di ghiaccio, e ogni tribù ha il proprio re. Sono ostinati e fieri, Combattono tutto il giorno e passano la notte a bere birra e a ruggire le loro selvagge canzoni. Allora penso proprio che tu gli somigli, Conan. Tu ridi volentieri, bevi molto e canti anche belle canzoni. Tuttavia non ho mai visto un altro cimmero che non beva altro che acqua, o non rida mai o canti canzoni che non siano lamenti funebri. Forse dipende dal paese in cui vivono. Una terra tetra, quale mai s'è vista, tutte montagne e foreste buie, sotto un cielo quasi sempre grigio, e i gemiti lamentosi del vento nelle vallate. Non hanno alcuna speranza, né in una vita né in quella dopo. I loro dei sono Crom e la sua stirpe tenebrosa, che regnano su un luogo senza sole di nebbie perenni, che è il regno dei morti. Per Mitra, la vita degli Esir era molto più di mio gusto. Bene, le cupe montagne della Cimmeria ora te le sei lasciate alle spalle. Ma adesso, mio re, devo andarmene. Berrò una coppa di vino nemediano in tuo nome, alla corte di Numa. Sì, Prospero, ma le danzatrici di Numa baciale a nome tuo, altrimenti coinvolgerai la mia corona. La scrosciante risata del re seguì Prospero nel corridoio. Che mercoledì, ragazzi! Oggi sarà una giornata piena di consegne. Ma niente panico! Con Lookout ho noleggiato il furgone giusto per muovermi in maniera agile nel traffico. Sono andato a Napoli, in via Diocleziano 80, e ho scelto modello e capienza. Basta la patente B. Con Lookout noleggio alla velocità della luce. Scopri di più su lookoutrent.com. Nelle cave piramidi dorme il grande dio Set. Fra l'ombre delle tombe strisciano i suoi seguaci. Io parlo la parola ad abissi ascosi e bui. Mandami un servo all'odio, tu dalle scaglie ardenti. Il sole del tramonto rivestì d'oro il verde e l'azzurro brumoso della foresta. I raggi morenti fecero scintillare la catena d'oro che Dion di Attalus rigirava senza posa tra le mani grasse e tozze, seduto tra la colorata profusione di fiori e piante del giardino. Mosse il grasso corpo sul sedile di marmo e si guardò furtivamente intorno, come se sospettasse la presenza di nemici in agguato. Sedeva in un boschetto circolare di alberi dal fusto sottile, i cui rami intrecciati gettavano ombre cupe su di lui. Lì vicino una fontana zampillava con suono argentino e altre fuori vista in varie parti del grande giardino mormoravano una sinfonia senza fine. Con lui c'era un'alta figura scura allungata su una panca di marmo con gli occhi profondi e cupi fissi sul barone. Dion prestava poca attenzione a Totamon. Sapeva vagamente che era uno schiavo in cui Ascalante riponeva molta fiducia, ma come gran parte dei ricchi badava poco alla gente di rango inferiore. Non devi essere così nervoso. Il complotto non può fallire. Ascalante può commettere errori come qualsiasi altro. Lui no. Altrimenti adesso io non sarei il suo schiavo, ma il suo padrone. Che cosa hai detto? Replicò stizzosamente Dion, che seguiva solo a metà la conversazione. Gli occhi di Totamon diventarono una fessura, nonostante il ferreo autocontrollo era sul punto di esplodere per la vergogna, l'odio e la rabbia trattenuti, ed era pronto a cogliere qualsiasi disperata occasione. Non si rendeva conto che Dion non lo considerava un essere umano dotato di cervello e intelligenza, ma semplicemente uno schiavo e quindi un essere senza interesse. Ascoltami, tu diventerai re, ma non conosci bene Ascalante. Non potrai fidarti di lui una volta ucciso Re Conan. Io posso aiutarti. Se mi prometti la tua protezione quando sarai al potere, io ti aiuterò. Ascoltami, barone. Ero un grande stregone nel mio paese. Il nome di Totamon era famoso quanto quello di Rammon. Re Xephon di Stigia mi concesse grandi onori, allontanò tutti i maghi dalle alte cariche per innalzare me sopra di loro. Essi mi odiavano, ma avevano paura di me, perché io controllavo esseri sovrumani che accorrevano al mio comando ed eseguivano i miei voleri. Per Set, un mio nemico, non sapeva mai quando poteva svegliarsi all'improvviso nel cuore della notte e sentirsi attorno alla gola le dita artigliate di un orrore senza nome. Compii terribili e tenebrose magie col mio anello di serpenti di Set, da me ritrovato in una tomba buia sepolta sotto una lega di terra, già dimenticata quando il primo uomo strisciò fuori dal mare fangoso. Ma un ladro mi rubò l'anello e il mio potere fu infranto. I maghi si sollevarono per uccidermi e io fuggii. Travestito da cammelliere, viaggiavo con una carovana nel paese di Kot quando i predoni di Ascalante ci piombarono addosso. Tutti gli uomini della carovana, tranne me, furono uccisi e io ebbi salva la vita solo perché rivelai la mia vera identità ad Ascalante e giurai di servirlo. È stata una ben amara schiavitù. Per avermi in suo potere, egli scrisse il mio segreto su di una pergamena, la sigillò e la consegnò ad un eremita che vive vicino ai confini meridionali di Kot. Io non oso pugnalarlo nel sonno né venderlo ai suoi nemici, perché l'eremita aprirebbe il manoscritto e lo leggerebbe secondo le istruzioni di Ascalante e farebbe correr voce in Stigia. Tot rabbrividì di nuovo e la sua pelle assunse un colore cinereo. «La gente di Aquilonia non sa chi io sia, ma se i miei nemici di Stigia sapessero dove mi trovo, nemmeno mezzo mondo di distanza sarebbe sufficiente a salvarmi da una fine che distruggerebbe l'anima di una statua di bronzo. Solo un re con castelli e legioni di soldati potrebbe proteggermi. Così ti ho rivelato il mio segreto e ti chiedo di fare un patto con me». Io metterò la mia sapienza al tuo servizio e tu mi proteggerai. E un giorno o l'altro ritroverò l'anello. L'anello? Anello! Tot aveva sottovalutato l'assoluto egoismo di quell'uomo. Dion non aveva nemmeno ascoltato le parole dello schiavo, tanto era immerso nelle sue riflessioni. Ma l'ultima parola lo aveva scosso. Anello! Ora che mi ricordo, il mio anello della fortuna. L'ebbi da un ladro scemita che giurava di averlo rubato ad uno stregone delle terre meridionali e che mi avrebbe portato fortuna. Glielo pagai bene per Mitra. E adesso ho bisogno di tutta la fortuna che posso avere, ora che Volmana e Ascalante mi hanno trascinato nei loro sanguinosi complotti. Vado a cercare l'anello. Tot balzò in piedi con il sangue che gli affluiva al volto e agli occhi ardenti per la rabbia e lo sbalordimento di chi si rende conto all'improvviso di quanto può essere stupido un uomo. Dion non se ne accorse nemmeno. Sollevò il coperchio di un nascondiglio celato nel sedile di marmo, frugò qualche secondo tra un cumulo di cianfrusaglie di vario genere, tipo amuleti barbari, pezzetti d'ossa, gioielli di cattivo gusto, portafortuna e amuleti che la sua natura superstiziosa lo aveva spinto a collezionare. «Ah, eccolo!» Sollevò con aria di trionfo un anello di curiosa fattura. Era fatto di un metallo simile al rame e aveva la forma di un serpente scaglioso attorcigliato in tre spire che si mordeva la coda. Gli occhi erano due gemme gialle che scintillavano maleficamente. Totamon gridò come se l'avessero colpito e Dion si girò, restando a bocca aperta, con il volto improvvisamente esangue. Gli occhi dello schiavo scintillavano, la sua bocca era spalancata e le enormi mani scure erano tese come artigli. «L'anello! Per Set, l'anello! Il mio anello! Quello che mi rubarono!» L'acciaio brillò nelle mani dello stigiano, con una spinta dalle spalle massicce Totamon conficcò il pugnale nel grasso corpo del barone. L'urlo acuto di Dion morì in un gorgoglio strangolato e il suo corpo flaccido si accasciò come burro fuso. Stupido fino alla fine, morì in preda a un folle terrore, senza nemmeno sapere perché. Totamon scostò il cadavere, già dimentico della sua esistenza, e afferrò con tutte e due le mani l'anello, mentre gli occhi splendevano di spaventosa avidità. «Il mio anello! Il mio potere!» Per molto tempo rimase accovacciato con in mano quel malefico oggetto, immobile come una statua, assorbendo nel suo animo tenebroso le infernali emanazioni che ne scaturivano. Quando si scosse dalle sue fantasticherie e richiamò la mente dai tenebrosi abissi che aveva scandagliato, la luna era già spuntata e gettava lunghe ombre sopra il levigato schienale di marmo del sedile, alla cui base giaceva l'ombra più scura che era stata il signore di Attalus. «Ora basta, Ascalante, ora basta!» mormorò lo stigiano con gli occhi rossi ardenti come quelli di un vampiro. Si chinò, raccolse nel cavo della mano un po' del sangue semicoagulato della sua vittima e lo strofinò sugli occhi del serpente di rame, sino a quando le gemme gialle furono coperte da una maschera rossa. «Rendi ciechi i tuoi occhi, divino serpente! Rendi ciechi i tuoi occhi alla luce della luna, perché vedano negli abissi tenebrosi! Che cosa vedi, o serpente di Set, che chiami dagli abissi della notte? L'ombra di chi cade sulla luce morente? Chiamalo a me, o serpente di Set!» Strofinò le scaglie con un curioso movimento rotatorio delle dita che le riportava sempre all'esatto punto di partenza. La sua voce divenne ancor più bassa mentre mormorava nomi misteriosi e sinistri incantesimi dimenticati in tutto il mondo tranne che nelle zone più interne della Stigia, dove forme mostruose si aggirano tuttora nel buio delle tombe. Ci fu un movimento nell'aria, un turbinio come quello prodotto nell'acqua da una creatura che salga alla superficie. Un vento gelido soffiò per un attimo su di lui come da una porta spalancata. Tot sentì una presenza alle spalle, ma non si guardò attorno. Tenne gli occhi fissi sul marmo illuminato dalla luna, dove un'ombra tenue si rifletteva. Mentre continuava a mormorare incantesimi, l'ombra si fece più grande e più chiara, fino a diventare ben distinta e terrificante. Il profilo ricordava quello di uno scimmione, ma uno scimmione simile a quello non aveva mai calcato la terra, nemmeno in Stigia. Tot continuò a non guardare, ma trasse dalla cintura un sandalo del suo padrone. Aveva sempre avuto la tenue speranza di poterlo usare in qualche modo, e se lo lanciò alle spalle. «Guardalo bene, schiavo dell'anello! Trova chi lo ha calzato e distruggilo! Guardalo negli occhi e annienta la sua anima prima di squarciargli la gola! Uccidilo! Lui e tutti quelli che sono con lui!» Dall'ombra riflessa sul marmo, Tot scorse l'orrenda creatura chinare la testa deforme e annusare come un orribile segugio. Poi l'essere risollevò l'orrida testa, si voltò e svanì come il vento tra gli alberi. Lo stigiano alzò le braccia al cielo, preso da folle esultanza, e i denti e gli occhi scintillarono alla luce della luna. Un soldato di guardia fuori dalle mura urlò, agghiacciato dall'orrore, quando un'immensa ombra nera dagli occhi fiammeggianti scavalcò con un balzo il muro e gli passò accanto con un vortice d'aria. Ma la forma svanì tanto rapidamente che lo sbalordito soldato rimase a chiedersi se era stata un sogno o un'allucinazione. Che mercoledì, ragazzi! Oggi sarà una giornata piena di consegne. Ma niente panico! Con Lookout ho noleggiato il furgone giusto per muovermi in maniera agile nel traffico. Sono andato a Napoli, in via Diocleziano 80, e ho scelto modello e capienza. Basta la patente B. Con Lookout, noleggio alla velocità della luce. Scopri di più su lookoutrent.com. Quando il mondo era giovane e ancor deboli gli uomini e gli spettri notturni camminavano liberi, io lottai contro Set con il fuoco, col ferro, con il succo benefico dell'albero di Upa. Or che giaccio dormiente nel cuore tenebroso di un monte e i secoli il tributo mi chiedono, tu dimentichi colui che lottò col serpente per riuscire a salvare al fin l'anima all'uomo? Solo nella grande camera da letto dall'alta cupola dorata Re Conan sognava. Attraverso vorticose nebbie grigiastre egli udì uno strano richiamo, fioco e distante, e sebbene non riuscisse a comprenderlo, si sentiva costretto ad ascoltarlo. Spada in mano, egli attraversava la nebbia grigia come un uomo che si muova tra le nuvole, mentre la voce si faceva sempre più chiara. Infine comprese la parola che diceva. Era il suo nome, pronunciato attraverso gli abissi dello spazio e del tempo. La nebbia si era dissipata ora ed egli s'avvide di stare camminando in un grande corridoio buio che pareva scavato nella viva roccia nera. Il corridoio non era illuminato, ma per qualche sorta di magia egli vedeva chiaramente. Pavimento, soffitto e pareti erano levigati e rilucevano fiocamente. Erano scolpiti con le figure di antichi eroi e di dei semi dimenticati. Conan rabbrividì, scorgendo il profilo nebuloso degli antichi innominati, e capì che da secoli piede mortale non aveva percorso quel corridoio. Salì un'ampia scala scavata nella roccia, le cui pareti erano ornate di simboli esoterici così antichi e terribili che Re Conan provò un brivido. Gli scalini recavano tutti la borrita figura dell'antico serpente Set, così che ad ogni passo egli posava il tallone sulla testa del serpente, come era inteso fosse fin dai tempi antichi. Ma non per questo si sentiva più tranquillo. La voce continuava a chiamarlo, e finalmente, in un'oscurità che sarebbe stata impenetrabile per i suoi occhi materiali, entrò in una cripta misteriosa e vide una figura indistinta, con la barba bianca seduta sopra ad una tomba. I capelli gli si rizzarono e la mano corse alla spada, ma l'essere parlò con tono sepolcrale. «Uomo, mi riconosci?» «No, per Crom!» «Uomo, io sono Epimitreus!» «Ma Epimitreus il saggio è morto da 1500 anni!» «Ascolta! Come un ciottolo lanciato in un lago in crespa l'acqua fino alla sua riva più lontana, così gli avvenimenti del mondo invisibile si sono infranti come onde contro il mio sonno!» «Ti ho osservato bene, Conan di Cimmeria, e il marchio di grandi avvenimenti ed imprese eccezionali è impresso su di te. Ma sul paese è stata scatenata una minaccia contro cui la tua spada non può esserti d'aiuto.» «Tu parli per enigmi. Mostrami il mio nemico e gli fenderò il cranio fino ai denti!» «Scatena la tua furia barbarica sui nemici in carne e ossa! Non è dagli uomini che devo farti scudo. Ci sono mondi tenebrosi di cui l'uomo sospetta appena l'esistenza, da dove provengono mostri informi, demoni che possono essere strappati dal vuoto esteriore perché assumono forma materiale e squartino e divorino gli ordini di maghi malvagi. C'è un serpente nella tua dimora, o re, una vipera nel tuo regno, venuta dalla Stigia con la tenebrosa sapienza delle ombre nella sua fosca anima. Come un uomo addormentato sogna il serpente che striscia vicino a lui, così io ho sentito l'oscena presenza di un seguace di Set. È ebbro di un terribile potere e i colpi che vibra il nemico possono far crollare il regno. Ti ho chiamato a me per darti un'arma contro di lui e la sua muta di demoni.» «Ma perché? La gente dice che tu dormi nel cuore tenebroso del monte Golamira, da dove mandi il tuo fantasma su ali invisibili per aiutare Aquilonia in tempo di bisogno. Ma io sono uno straniero e un barbaro.» «Pace! Il tuo destino è tutto quello che c'è con Aquilonia. Avvenimenti di capitale importanza prendono forma nella tela del fato e uno stregone ebbro di sangue non si frapporrà al destino imperiale. Secoli fa, Set attorcigliava le sue spire attorno al mondo come un pitone attorno alla preda. Per tutta la mia vita, lunga quanto quella di tre uomini comuni, io l'ho combattuto. Io l'ho spinto nelle ombre del meridione misterioso. Ma nella Stigia tenebrosa, gli uomini continuano ad adorare lui, che per noi è il demone supremo. Combattendo Set, ho combattuto anche contro i suoi adoratori e i suoi fedeli e i suoi accoliti. Ed ora solleva la spada! Meravigliato, Conan ubbidì e sulla grande spada, vicino alla pesante guardia d'argento, il vecchio tracciò con un dito ossuto uno strano simbolo che scintillò come una fiamma bianca nell'oscurità. E in quell'istante, cripta, tomba e vecchio svanirono. E Conan, stupefatto, balzò giù dal letto, nella camera dalla grande cupola dorata. Perplesso per la stranezza del sogno, si accorse che stringeva in pugno la spada. Sentì i capelli rizzarsi sulla nuca. Sull'ampia lama adesso era inciso un simbolo, il profilo di una fenice. Si ricordò che sulla tomba dentro la cripta aveva visto una figura simile scolpita nella pietra. Si chiese se era stato davvero solo una figura di pietra e provò di nuovo un brivido per la stranezza di ciò che gli era accaduto. Poi un rumore furtivo nel corridoio lo scosse. Senza curarsi di scoprire che cosa fosse, cominciò a indossare l'armatura. Era di nuovo un barbaro, sospettoso e allerta come un lupo grigio, messo con le spalle al muro. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Che cosa so io dei modi civili, d'oro, d'inganni, menzogne? Io che son nato in una terra spoglia e vissi sotto il cielo. L'abilità sottile del parlare sofista fallisce quando canta la gran spada fidata. Correte a morte, cani bastardi! Che fui uomo prima ancora che sire! La strada dei re. Nel silenzio che avvolgeva il corridoio del palazzo reale, 20 figure avanzavano furtive. I loro piedi, nudi o calzati di morbido cuoio, non provocavano alcun rumore, né sui folti tappeti né sulle piastrelle di marmo. Le torce posate nelle nicchie lungo le pareti traevano barbagli rossastri da pugnali, spade e asce affilate. «Calma! Smettetela di respirare così rumorosamente. L'ufficiale della guardia notturna ha allontanato la maggior parte delle sentinelle da queste sale e ha fatto ubriacare il resto, ma dobbiamo comunque stare attenti!» «Indietro! Arriva la guardia!» sibilò Ascalante. Si ammassarono dietro alcune colonne scolpite. Quasi subito 10 uomini giganteschi in armatura nera passarono lungo il corridoio con passo cadenzato. Guardavano con aria dubbiosa l'ufficiale che li conduceva lontano dal loro posto di guardia. L'ufficiale in questione era piuttosto pallido in volto, mentre il drappello oltrepassava il nascondiglio dei congiurati si asciugò il sudore della fronte con la mano che tremava. Era giovane e tradire un re non gli riusciva facile. Maledì dentro di sé le dispendiosi stravaganze che gli avevano procurato tanti debiti con gli usurai, rendendolo così una pedina nei piani dei politicanti. Le sentinelle sparirono nel corridoio. «Bene, Conan dorme senza guardie. Presto! Se ci scoprono mentre lo uccidiamo siamo perduti, ma ben pochi sposeranno la causa di un re defunto!» «Sì, presto!» esclamò Rinaldo. I suoi occhi azzurri uguagliavano il balenio della spada che agitava sopra la testa. La mia spada è assetata di sangue! Odo già gli avvoltoi radunarsi! Andiamo! Si affrettarono lungo il corridoio senza più curarsi di non far rumore e si fermarono davanti ad una porta dorata, ornata col drago reale, simbolo di Aquilonia. «Gromel! Sfonda la porta!» gridò Ascalante. Il gigante trasse un respiro profondo e si lanciò con tutto il suo peso contro la porta che gemette e si curvò sotto l'urto. Di nuovo l'uomo si raccolse su se stesso e si slanciò. La parte sfasciata crollò nella stanza con uno scricchiolio di chiavistelli rotti e di legno spaccato. «Dentro! Avanti! Morte al tiranno!» gridarono insieme Ascalante e Rinaldo. Ma si fermarono di colpo. Conan era di fronte a loro, non un uomo nudo ancora mezzo addormentato e senza armatura, pronto per essere sgozzato come una pecora, ma un barbaro completamente sveglio e allerta, con quasi tutta l'armatura già indosso e la lunga spada in pugno. La scena rimase immobile per un istante. I quattro nobili ribelli fermi accanto alla porta fracassata, il gruppo di volti feroci e irsuti alle loro spalle, tutti momentaneamente paralizzati alla vista degli occhi ardenti del gigante immobile con la spada sguainata nel centro della stanza illuminata dalle candele. In quell'attimo Ascalante scorse su di un tavolino accanto al letto reale lo scettro d'argento e il sottile cerchio d'oro che era la corona di Aquilonia, e quella vista lo rese pazzo di desiderio. «Avanti, furfanti! È uno contro 20 e non ha l'elmo!» Era vero. Conan non aveva avuto il tempo di indossare il pesante elmo piumato, né di agganciarsi le piastre laterali della corazza, e non ce l'avrebbe fatta ad afferrare il grande scudo appeso al muro. Eppure Conan era meglio protetto di ciascuno dei suoi nemici, eccetto Volmana e Gromel, che indossavano l'armatura completa. Il re li fissò perpresso circa la loro identità. Non conosceva Ascalante e non riusciva a scorgere i volti dei cospiratori in armatura a causa delle visiere celate, e Rinaldo si era tirato il cappello floscio fin sugli occhi. Ma non c'era tempo per congetture. Con un urlo che salì fino al soffitto, gli assassini si riversarono nella stanza, Gromel davanti a tutti. Si avventò come un toro che carica, testa bassa, con la spada pronta a sbudellare. Conan lo affrontò mettendo nel braccio che vibrava la spada tutta la sua forza da tigre. La grande lama tracciò un arco nell'aria e si schiantò sull'elmetto del bossoniano. Lama ed elmo si fracassarono insieme e Gromel rotolò a terra senza vita. Conan balzò indietro, stringendo in pugno l'elsa spezzata. «Gromel!» proruppe il re con occhi scintillanti quando l'elmo fracassato gli mostrò la testa che aveva protetto. E poi il resto della banda gli fu addosso. La punta di un pugnale lo ferì al fianco, tra il pettorale e il dorsale della corazza. Il filo di una spada gli balenò davanti agli occhi. Conan scostò da sé il congiurato armato di pugnale e calò l'elsa sulla fronte dello spadaccino. Il cervello dell'uomo gli schizzò in faccia. «Uomini! 5 stiano attenti alla porta!» gridò Ascalante, che si agitava ai bordi di quel turbinio d'acciaio, temendo che Conan riuscisse ad aprirsi la strada nella mischia e a fuggire. Per un attimo i congiurati indietreggiarono, mentre il loro capo ne sceglieva alcuni a caso e li spingeva contro l'unica porta. In quel breve attimo di respiro, Conan balzò verso la parete e afferrò un'antica ascia da guerra, ancora ben conservata, che vi era appesa da più di mezzo secolo. Con la schiena appoggiata alla parete, fronteggiò per un istante il cerchio che si stringeva e balzò in mezzo agli avversari. Non era un combattente da difesa. Anche di fronte alla disparità schiacciante del numero, era sempre lui ad attaccare. Qualsiasi altro uomo sarebbe già morto e Conan non aveva alcuna speranza di sopravvivere, ma con la ferocia voleva infliggere il maggior numero possibile di perdite al nemico prima di cadere. Il suo animo barbarico era infiammato d'odio e i canti degli antichi eroi gli risuonavano negli orecchi. Mentre balzava dalla parete, l'ascia abbatté un congiurato fracassandogli una spalla e con il colpo di ritorno squarciò il cranio a un altro. Le spade gli ronzavano malignamente attorno, ma la morte sembrava solo sfiorarlo. Il cimero si muoveva con fulminea rapidità, sembrava una tigre in mezzo a un branco di scimmie. Balzava, saltava di lato, roteava su se stesso, offrendo un bersaglio in costante movimento, mentre la sua ascia tesseva un ordito di morte attorno a lui. Per un attimo gli assassini gli furono veramente vicini, grandinando colpi alla cieca, ostacolati dal loro stesso numero. E poi indietreggiarono all'improvviso. E due cadaveri sul pavimento provavano la furia possente del re, anche se Conan stesso sanguinava da ferite a un braccio, al collo e alle gambe. Canaglie! Urlò Rinaldo, sbarazzandosi del cappello piumato, gli occhi ardenti di ferocia. Indietreggiate di fronte alla lotta! Il tiranno deve dunque vivere addosso! E si lanciò in avanti, colpendo come una furia. Ma Conan, avendolo riconosciuto, gli fracassò la spada con un terribile colpo e con una poderosa spinta a mano aperta lo buttò a terra. La spada di Ascalante lo ferì al braccio sinistro, ma il fuorilegge fece appena in tempo a salvarsi piegandosi e balzando indietro per evitare l'ascia di Conan. Di nuovo i lupi lo circondarono d'appresso e l'ascia del cimmero cantò una canzone di morte. Un assassino irsuto si tuffò in avanti afferrando le gambe del re, ma era come smuovere una torre di ferro. Sollevò gli occhi appena in tempo per vedere l'ascia cadere, ma non per evitarla. Nello stesso istante, un suo compagno sollevò lo spadone con entrambe le mani e lo calò sulla spalla del re. In un attimo, la corazza di Conan fu piena di sangue. Volmana, scostando gli assalitori a destra e a sinistra con selvaggia impazienza, si aprì un varco nella mischia e vibrò un colpo terribile alla testa non protetta di Conan. Il re si piegò in due e la spada gli fischiò sulla testa tagliandogli solo un ciuffo di capelli. Poi ruotò su se stesso e vibrò un fendente di lato. L'ascia penetrò nella corazza d'acciaio e Volmana crollò a terra con il fianco sinistro squarciato. «Volmana, pure tu? Oh, rivedrò quel nano deforme all'inferno!» Conan si raddrizzò, pronto a fronteggiare il furioso assalto di Rinaldo, che attaccò come impazzito allo scoperto, armato solo di un pugnale. Conan balzò indietro, sollevando l'ascia. «Rinaldo!» La sua voce strideva come un disperato avvertimento. «Stai indietro! Io non voglio ucciderti!» «Muori, tiranno!» urlò il folle menestrello gettandosi a capofitto sul re. Conan si trattenne, riluttante a colpire, finché fu troppo tardi. Solo quando sentì il morso dell'acciaio nel fianco scoperto, colpì fra le dita premute sulla ferita. «Avanti! Adesso! Uccidetelo!» urlò Ascalante. Conan si appoggiò alla parete e alzò l'ascia. Sembrava l'immagine vivente dell'invincibilità primitiva. Le gambe larghe, la testa in avanti, una mano poggiata alla parete per sorreggersi, l'altra che brandeva l'ascia, i muscoli tesi come corde d'acciaio, una smorfia feroce sul volto, gli occhi che mandavano fiamme attraverso il velo di sangue che li annebbiava. Gli uomini esitarono. Per quanto feroci, criminali e senza legge, essi erano di razza cosiddetta civile e il barbaro appariva invece come un'incarnazione della morte. Indietreggiarono. La tigre morente può ancora uccidere. Conan avvertì la loro incertezza e sogghignò con ferocia. «Chi muore per primo?» biascicò tra le labbra ferite e sanguinanti. Ascalante balzò come un lupo, si arrestò quasi a mezz'aria con incredibile rapidità e si buttò a terra per evitare la morte che stava sibilando verso di lui. Freneticamente rotolò su se stesso e fuori portata mentre Conan ritrovava l'equilibrio dopo il colpo mancato e colpiva di nuovo. Questa volta l'ascia si conficcò nel pavimento levigato, vicinissima alle gambe di Ascalante. Un altro assassino scelse proprio quel momento per attaccare, seguito dagli incerti compagni. Intendeva colpire Conan prima che il cimmero riuscisse a svellere l'ascia dal pavimento, ma sbagliò i suoi calcoli. L'ascia, arrossata, si sollevò e calò di nuovo, catapultando la caricatura insanguinata di un uomo contro le gambe degli assalitori. In quell'istante, i congiurati di guardia alla porta lanciarono un urlo di terrore. Un'ombra nera e deforme piombò nella stanza. Tutti, tranne Ascalante, si girarono nell'udire quel grido e, ululando come cani, si precipitarono alla cieca fuori della porta, urlando e imprecando, e si sparpagliarono in fuga per i corridoi. Ascalante non guardò la porta. Aveva occhi solo per il re ferito. Immaginava che il rumore della lotta avesse destato il palazzo e che le guardie leali al re fossero accorse. Ma gli pareva strano che quegli incalliti fuorilegge urlassero in modo così spaventoso. Conan non guardò verso la porta poiché fissava il congiurato con occhi ardenti, come quelli di un lupo ferito. Anche però in quel frangente il torvo cinismo non abbandonò Ascalante. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen alla Reggia Designer Outlet e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo Store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Pare che tutto sia perduto, e in special modo l'onore. Ma il re sta morendo e... Qualunque fosse il pensiero che attraversava la mente di Ascalante, non lo si saprà mai. Lasciando la frase a metà, corse rapidamente verso Conan, proprio mentre il cimmero era costretto a tergersi il sangue degli occhi con il braccio armato. Ma mentre stava per balzare, uno strano movimento agitò l'aria e un potente colpo gli calò tra le spalle. Ascalante cadde a terra lungo disteso e artigli enormi gli si affondarono nelle carni. Torcendosi disperatamente, ruotò la testa e guardò il volto d'incubo e di follia. Appollaiato su di lui c'era un gigantesco essere nero che non poteva essere nato in un mondo umano. Le zanne nere e bavose gli sfioravano la gola e il bagliore degli occhi giallastri gli faceva raggrinzire le membra come il vento gelido fa avvizzire il grano. L'orrore di quel viso trascendeva la semplice bestialità. Poteva essere il viso di un'antica mummia malevola, ravvivata da vita demoniaca. Con gli occhi dilatati dall'orrore, al fuorilegge parve di scorgere in quegli orridi lineamenti, come un'ombra nella follia che lo avviluppava, una vaga e terribile rassomiglianza con lo schiavo Totamon. Poi anche il suo spietato cinismo lo abbandonò e con un grido terrificante Ascalante rese l'anima prima ancora che le zanne bavose lo sfiorassero. Conan, scuotendosi dagli occhi le gocce di sangue, fissava agghiacciato la scena. Dapprima pensò che l'essere fosse un enorme segugio nero accucciato sul corpo contorto di Ascalante. Poi, quando la vista gli si schiarì, vide che non si trattava né di un segugio né di uno scimmione. Con un grido che era come l'eco dell'urlo di morte d'Ascalante, abbandonò barcollando la parete e prevenne il balzo del mostro con un fendente nel quale aveva messo tutta la sua forza. La lama scivolò lungo il cranio che avrebbe dovuto fracassare e il re fu catapultato in mezzo alla stanza dall'urto di quel corpo gigantesco. Le fauci bavose si chiusero sul braccio che Conan aveva sollevato a proteggere la gola, ma il mostro non si curò di stringere a morte. Da sopra il braccio azzannato fissò gli occhi demoniaci in quelli del re, nei quali cominciava a riflettersi una parte dell'orrore che scaturiva dallo sguardo vitreo di Ascalante. Conan sentì che l'anima gli era come strappata dal corpo per essere affogata nei due pozzi gialli d'orrore cosmico che scintillavano spettrali nel caos informe che gli cresceva attorno, ingoiando la sua vita e la sua ragione. Quegli occhi divennero immensi e in essi il cimmero scorse la realtà di tutti gli orrori insondabili e maledetti che sono in agguato nelle tenebre disumane del nulla informe e degli abissi oscuri. Aprì le labbra insanguinate per urlare tutto il suo odio e il suo raccapriccio, ma dalla gola gli uscì solo un rantolo. Ma l'orrore che aveva paralizzato e distrutto Ascalante sollevò nel cimmero una frenetica furia prossima alla follia. Con una contorsione tremenda di tutto il corpo si tuffò all'indietro senza badare al dolore del braccio lacerato, trascinandosi il mostro. Urtò con la mano tesa qualcosa che il cervello annebbiato riconobbe per l'elsa della spada spezzata e istintivamente l'afferrò e colpì con tutta la forza dei muscoli e dei nervi, usandola come se fosse un pugnale. La lama spezzata affondò profondamente e il braccio di Conan fu libero mentre le orride fauci si spalancavano per il dolore. Scagliato con violenza di lato, il cimmero si sollevò poggiandosi al braccio sano e guardò, come inebetito, le terribili convulsioni del mostro, dal quale zampillava sangue dalla profonda ferita procurata dal troncone di lama. Poi l'essere cessò di contorcersi e cadde a terra immobile, con i funesti occhi ormai spenti rivolti al soffitto. Conan batté le palpebre e si scosse di nuovo il sangue dagli occhi. Gli parve che il mostro stesse sciogliendosi in una massa tremolante e limacciosa. Poi un guazzabuglio di voci gli giunse alle orecchie e la stanza si riempì di gente. Signori, cavalieri, dame, armigeri, consiglieri, tutti vociavano e gridavano, ostacolandosi l'un l'altro. I dragoni neri, furiosi di rabbia, imprecavano e si agitavano, stringendo l'elsa della spada e imprecando a mezza voce. Del giovane ufficiale della guardia non si seppe più nulla nonostante le ricerche. «Gromel! Volmana! Rinaldo!» esclamò Publio, il primo consigliere, rivoltando i corpi dei morti. «Tradimento! Qualcuno danzerà dalla forca per questo! Chiamate la guardia!» «La guardia è qui, vecchio imbecille!» disse senza cerimonie Callantide, il comandante dei dragoni neri, dimenticando, nella tensione del momento, il rango di Publio. Cerca di smettere con i tuoi miagoli e aiutaci a bendare le ferite del re! Finirà per morire dissanguato! Sì, sì! Gridò Publio, che era più uomo di governo che d'azione. Dobbiamo bendare le sue ferite! Manda a chiamare tutti i medici di corte! Oh, mio signore, che vergogna per la città! Ma sei proprio moribondo? Fino! Ansimò il re dal divano su cui l'avevano disteso e gli accostarono una coppa alle labbra insanguinate ed egli bevve come un uomo che stesse per morire di sete. Oh, sto meglio! Uccidere è un lavoro che mette una sete maledetta! Avevano arrestato l'emorragia e l'innata vitalità del barbaro cominciava a manifestarsi. Guardate prima la ferita di pugnale al fianco! Rinaldo vi ha scritto una canzone mortale e il suo stile era davvero pungente! Disse il re ai medici di corte. Mio re, dovevamo impiccarlo già da un pezzo! Nessun bene viene mai dai poeti! E questo invece chi è? Con riluttanza Publio toccò con il piede il corpo di Ascalante. Per Mitra! Ma questo è Ascalante, l'ex conte di Tune! Quale infame compito l'ha portato lontano dal suo covo nel deserto! Ma perché i suoi occhi sono così sgranati? Bisbigliò Publio allontanandosi, spalancando egli stesso gli occhi mentre un brivido gli correva lungo la nuca grassoccia. Gli altri guardarono in silenzio il fuorilegge. Se aveste visto ciò che io e lui abbiamo visto, non vi meravigliereste. Guardate quel... Ma il re si interruppe a bocca aperta, il dito teso a indicare il nulla. Dove il mostro era morto, c'era adesso solo il nudo pavimento. Crom, l'essere ritornato alla sozzura che l'aveva generato. Il re delira, bisbigliò un nobile. Conan lo udì e si mise a imprecare contro i suoi dei barbari. Per Badb, Morrigan, Makain e Main! Io non sono pazzo! Quella cosa era l'incrocio tra una mummia stigiana e uno scimmione! È entrato da quella porta e gli uomini di Ascalante sono fuggiti davanti a lui! Ha ucciso Ascalante mentre stava per ammazzarmi! Poi mi è balzato addosso e io l'ho ucciso! E come non lo so, perché l'ascia rimbalzava su di lui come una roccia! Ma credo che Epimetheus il saggio in questo abbia avuto una parte importante! Senti come parla di Epimetheus, morto da 15 secoli! Bisbigliarono i presenti. Perimir! Stanotte io ho parlato con Epimetheus stesso! Mi ha chiamato in sogno e io ho percorso un corridoio buio adorno di statue di vecchi dei, fino a una scalinata di pietra su cui gradini c'era il profilo di Set, che portava in una cripta, e sopra una tomba su cui era scolpita una fenice. Per amor di Mitra, taci, sire! Era il grande sacerdote di Mitra che aveva urlato, pallido in volto. Conan alzò la testa come un leone che scuote la criniera e la sua voce era come il ruggito della belva inferocita. Non sono uno schiavo io che puoi zittire con un ordine! No, mio signore, non intendevo offenderti. Il grande sacerdote tremava, ma non per paura della collera reale. Si chinò sul re e gli disse, in un mormorio che giunse solo agli orecchi di Conan. Mio signore, è una faccenda che va oltre la comprensione umana. Solo la cerchia più ristretta dei sacerdoti conosce il corridoio di pietra nera scavato da mani sconosciute nel cuore del monte Golamira e la tomba custodita dalla Fenice dove Epimetheus fu sepolto 1500 anni fa. Da allora nessun uomo vivente vi è più penetrato, perché i sacerdoti da lui scelti, dopo aver deposto il saggio nella cripta, bloccarono l'entrata del corridoio in modo che nessuno potesse scoprirla. E oggi neppure i grandi sacerdoti sanno dove esso si trovi. Il segreto è tramandato oralmente dai grandi sacerdoti a pochi eletti e gelosamente scolpito, tanto che solo una ristretta cerchia di accoliti di Mitra conosce l'ubicazione della tomba di Epimetheus nelle viscere buie del monte Golamira. È uno dei misteri sui quali si basa il culto di Mitra. Io non so con quale magia Epimetheus mi abbia condotto da lui, ma io gli ho parlato, sacerdote, e lui stesso ha tracciato un simbolo sulla mia spada. Perché esso la rende mortale ai demoni, o quale magia stia dietro quel segno, io non lo so. Ma anche se la spada si è spezzata contro l'elmo di Gromel, il pezzo rimasto è stato sufficiente a uccidere il mostro. Mostrami la spada, mio re, bisbigliò il grande sacerdote con la gola improvvisamente asciutta. Conan gli porse il moncone e il grande sacerdote lanciò un grido, cadendo in ginocchio. «Mitra, ci preservi dai poteri delle tenebre! Il re ha davvero parlato con Epimetreus stanotte! Sulla spada c'è il segno segreto che nessun altro avrebbe potuto tracciare tranne lui, l'emblema della Fenice immortale che medita per l'eternità sulla sua tomba! Una candela, presto! Guardiamo di nuovo il punto dove il re dice che è morto il demone!» Il posto era nei pressi di un paravento infranto. Spostarono il paravento e illuminarono il pavimento con una candela, mentre tutti attendevano in silenzio. Qualcuno cadde in ginocchio invocando il nome di Mitra e altri fuggirono urlando dalla stanza. Là, dove il mostro era morto, c'era, come un'ombra appena accennata, un'ampia macchia scura che non poté più essere cancellata. I contorni dell'essere, chiaramente impressi dal suo stesso sangue. E non erano quelli di un essere del mondo normale. Sinistri e terrificanti, somigliavano all'ombra gettata da una delle scimmiesche divinità appollaiate su altari tenebrosi, nei templi fiocamente illuminati, nelle terre perdute della Stigia. Fine. La locanda della tormenta è stata lieta di presentare Conan, la fenice sulla lama. Grazie per l'ascolto. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet. E scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa.